Il compianto della Vergine di Jacopone da Todi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Personaggi ed interpreti. Nunzio, letto da Sabina. Vergine, letto da Marilena. Cristo, letto da Pierre. Turba, prima voce, letto da Pierre. Turba, voce seconda, letta da Marilena. Turba, terza voce, letto da Sabina. Donna del paradiso, lo tuo figliolo è preso. Gesù Cristo beato, accorre donna, e vide che la gente l'allide, credo che lo soccide, tanto l'on flagellato. Come esser porria, che non fe mai follia, Cristo, la speme mia, om l'avesse pigliato. Madonna, ella è traduto, Giuda sì l'ha venduto, 30 dinar n'ha avuto, facto n'ha gran mercato. Succurri Magdalena, ionta m'addosso pena, Cristo figlio semena, come m'ha annunziato. Succurri, donna, aiuta, ch'al tuo figlio se sputa, et la gente lo muta, on l'ho dato a Pilato. Oh, Pilato, non fare il figlio mio tormentare, ch'io te posso mostrare come a torto è accusato. Crucifige! Omo che se farege, secondo nostra legge, contraddice al Senato. Omo che se farege, secondo nostra legge, contraddice al Senato. Prego che m'intennate, nel mio dolor pensate, forse move mutate de quel che t'è parlato. Tragon fuor li ladroni, che sian sui compagnoni. De spine se coroni, che regge se chiamato. Oh, figlio, amoroso Giglio, figlio, chi dà consiglio al cor mio angustiato? Oh, figlio, occhi iocundi, figlio, co non rispondi, figlio, perché t'ascondi? Dal petto o se lactato. Madonna, ecco la croce che la gente la duce ove la vera luce degli esser levato. O croce, che farai? E il figlio mi torrai? E che ci apponerai che non ha in sé peccato? Curri piena de doglia che tuo figlio se spoglia, la gente par che voglia che sia crucificato. Si tollete il vestire, lassatemel vedire come è il crudel ferire tutto l'ha insanguinato. Donna, la man l'è presa e nella croce stesa, con un bollon l'è fesa, tanto ce l'ho ficcato. L'altra mano se prende, nella croce se stenne, et lo dolor s'accenne che più è moltiplicato. Donna, li piese prenno, e schiavellanze allenno, omni giuntura prenno, tutto l'on desnodato. Et io, comenso il corrotto, figlio, mio deporto, figlio, chi m'età morto, figlio mio delicato, meglio averion fatto che il cor m'avesser tratto, che nella croce rapto, starce descigliato. Mamma, ov'ei tu venuta? Mortal me dai feruta, che il tuo pianger m'estuta, che il vegio sia afferrato. Piagno, che m'agio anvito, figlio, pate e marito? Figlio, chi t'ha ferito? Figlio, chi t'ha spogliato? Mamma, perché te lagni? Voglio che tu rimagni, che serve ai compagni, ch'al mondo agio acquistato. Figlio, questo non dire, voglio teco morire, non me voglio partire finché mo m'esce il fiato. C'una gian sepoltura, figlio de mamma scura, trovarsi in affrantura, mate e figlio affocato. Mamma, col cuore afflitto, entra le man temecto de Ioanne, mio eletto, sia il tuo figlio appellato. Ioanne, esto mi amate, tollela e incaritate, aggine pietate, caro cuore forato. Figlio, l'alma t'è uscita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio mio attossicato, figlio bianco e vermiglio, figlio senza similio, figlio a chi m'appiglio, figlio pur mai lassato, o figlio bianco e biondo, figlio volto iocondo, figlio, perché t'ha il mondo, figlio, così sprezzato? Figlio, dolce piacente, figlio della dolente, figlio, a te la gente malamente trattato. Ioanne, figlio novello, mortelo tuo fratello, sentito agio il coltello che fo profetizzato, che morto a figlio e mate de dura morte afferrate, trovarse a braccia cate, mate et figlio a un cruciato. Fine del compianto della Vergine di Jacopone da Todi.